Abbassi per favore un pochino la voce spia perché fischia tantissimo. Eh? Ah no, basta, era l'ultima questa. Ok, il prossimo pezzo si chiama Holy Wars. Holy Wars. I am not responsible for you. Abbassami la voce in spia, per favore. This is going to be right to hide. Il prossimo pezzo nuovo è dedicato a Luca, a Nico, a Francesco per aver organizzato il concerto e averci dato l'opportunità di suonare stasera. Grazie mille. Yeah. Ok, la prossima è una cover. Penso che qualcuno la sa. This fucking city is run by me. They take the rights away from other kids. Understand it, we're fighting a war. Nowhere. They ain't got where they go. No way. No way. No fucking way. Walk down this street and beat them up. With a better club. Understand it, we're fighting a war. We can win. They ain't us, we ain't them. We can win. No way. I got the knock. Got a shot. I just said you don't get fucked. They put me away. Understand it, we're fighting a war. We can win. They ain't us, we ain't them. We can win. No way, no way, no way! I've got a gun for my crime. I'm sitting in my prison, I'm in some sun. Understand it, we're fighting war, we can win. They ain't us, we ain't them, we can win. No way, no way, no way! Grazie. Ok, il prossimo è l'ultimo pezzo. Grazie a tutti per essere venuti e a tutti i gruppi che suoneranno dopo di noi, all'Ozzo che hanno suonato prima. Ok, questo si chiama Do You Remember? Ciao a tutti. Ah! Go on! Jesus, my honey. Did I get to sleep? Let's die. Did the best life gave the wrong. Ciao a tutti, noi siamo Revolution Sound. Abbiamo CD e maglietta.